GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Come deve funzionare la macchina dei soccorsi su fiumi e torrenti in regione? I protocolli di emergenza dopo la morte dei tre ragazzi affogati lo scorso maggio nel Natisone. Un presidio di polizia permanente per arginare le aggressioni nel pronto soccorso. A chiederlo i sindacati dopo l'ultimo episodio accaduto a Monfalcone. 483 gli episodi di violenza segnalati in regione, secondo un report del Ministero della Sanità. Con una cerimonia intitolato a Geppino Micheletti, il giardino interno dell'ospedale maggiore di Trieste, il 18 agosto di 78 anni fa la strage di Vergarolla, in cui il medico continuò a curare feriti e a salvare vite nonostante avesse appena perduto i suoi figli. Farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia la campagna della Carovana dei Ghiacciai 2024, che porterà in primo piano gli effetti della crisi climatica, gli eventi meteo estremi in montagna e la tutela della biodiversità. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Dopo la tragedia del Natisone, in cui lo scorso maggio persero la vita tre ragazzi affogati nel fiume, qualcosa si sta muovendo nella gestione delle emergenze sui corsi d'acqua in regione. 23 luglio, un olandese 59enne bloccato su una roccia del torrente Arzino. Interviene con successo l'elisoccorso, che vericella un tecnico del soccorso alpino. 29 luglio, stesso corso d'acqua, ragazzo di 14 anni travolto dalla corrente, viene salvato in una nicchia dove l'acqua è meno vorticosa, attivata dalla SORES, la stazione di Maniago del soccorso alpino e l'elisoccorso regionale. 13 agosto, donna in difficoltà vicino al Ponte del Diavolo, sul Natisone, intervengono i vigili del fuoco di Cividale, ma le condizioni rendono necessario il supporto dell'elicottero sanitario con vericello per mettere in sicurezza la donna. Dopo la morte di Patrizia, Bianca e Cristian, i tre ragazzi affogati nel fiume Natisone il 31 maggio, sembra che qualcosa stia cambiando a livello di gestione delle emergenze sui corsi d'acqua in Friuli Venezia Giulia, quantomeno a livello informale, perché i protocolli sono nazionali. Ricordiamo che possibili colpe omissive nella catena dei soccorsi sono al vaglio della Procura di Udine, c'è un'inchiesta aperta. Circa un mese fa gli inquirenti hanno svolto accertamenti sui tempi di percorrenza degli elicotteri. Drago, quello dei vigili del fuoco, è raggiunto da Venezia 1:15 dopo la prima chiamata al 112 di Patrizia e comunque dopo l'elisoccorso regionale attivato successivamente a Drago. Con un accesso agli atti abbiamo chiesto alla centrale unica di Palmanova quali i protocolli vigenti. Si basano su un disciplinare del Ministero dell'Interno. Fondamentale la distinzione tra soccorso tecnico di competenza dei vigili del fuoco e quello di tipo sanitario, che vede l'attivazione della SORES. Al telefono la domanda posta dall'operatore del NUE 112 è: vede feriti? Un approccio che, proprio di fronte a questo doppio binario nei soccorsi, secondo alcuni addetti ai lavori non sarebbe adeguato nei casi intermedi dove la situazione potrebbe evolvere in rischio sanitario. Gli operatori del 112, inoltre, non avrebbero alcuna informazione riguardo al parco mezzi in dotazione ai vari enti, si legge nella risposta. Non saprebbero cioè che non c'è un elicottero dei vigili del fuoco in regione. Dopo un test sulle nozioni geografiche di base per diventare centralinista, è previsto un corso formativo di 105 ore. Di queste, 8 ore sono dedicate alla composizione del territorio della nostra regione. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora torniamo sull'ennesima aggressione in un pronto soccorso. L'ultima è accaduta ieri all'alba a Monfalcone. I sindacati UIL, FPL e NURSIND tornano a chiedere con forza, come già in precedenti episodi, un servizio di vigilanza. Continuano a chiedere più tutele i sindacati della sanità a fronte dell'ultimo episodio violento di sabato notte al pronto soccorso di Monfalcone. Un uomo visibilmente alterato e sporco di sangue ha sfondato la porta perché voleva vedere la sua compagna, che si era fatta male poco prima durante un litigio tra loro in un'abitazione di Vermegliano. La sua furia ha spaventato gli operatori sanitari, che hanno chiamato la polizia. Oltre che per danneggiamento di bene pubblico, l'uomo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale dopo aver tenuto un comportamento inappropriato anche con gli agenti intervenuti. Secondo gli investigatori, la donna si sarebbe ferita da sola sbattendo contro una porta e proprio per la cura di questa ferita si trovava in ospedale. Entrambi provengono da un contesto sociale difficile, contrassegnato dal problema della dipendenza alle droghe. Il caso fa riemergere il tema delle aggressioni sanitarie, che negli ultimi anni è monitorato con maggiore attenzione a seguito di una serie di fatti di cronaca preoccupanti. Secondo un rapporto del Ministero della Sanità dedicato a questo fenomeno, gli episodi di violenza nel solo Friuli Venezia Giulia nel 2023 sono stati 483, in media più di uno al giorno, quasi 10 a settimana. Fatti che spesso rimangono all'oscuro dell'opinione pubblica, non come è accaduto nel caso di Monfalcone, per la quale è stata pronta la denuncia dei sindacati Nursind e UIL. Proprio siamo con il segretario regionale della UIL, Stefano Bressan, a cui chiediamo qual è la sua richiesta. Gli operatori sanitari devono essere tutelati, perché chi tutela la salute di tutti noi a sua volta non può non essere tutelato. Noi è già da più di un anno che chiediamo l'inserimento del pulsante rosso, quindi la richiesta immediata di soccorso e una postazione fissa di polizia presso il pronto soccorso, visto anche il tipo di utenza che frequenta o comunque che fruisce di questo servizio. Monfalcone, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Il cielo è coperto su tutta la regione, siamo alla pagina dedicata al meteo. Le temperature registrate alle 11, a Trieste 24 gradi, il mare è poco mosso con una temperatura di 29 gradi, a Udine Gorizia 21, a Pordenone 22, a Tolmezzo 19, a Tarvisio 18, Forni di Sopra 19, a Sappada Piancavallo 15 gradi, sul Monte Zoncolan 13, sul Monte Lussari 12, a Grado 23, a Lignano 22. La temperatura del mare in entrambe le località è di 28 gradi. Queste le previsioni. Oggi pomeriggio cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse intermittenti in genere moderate, localmente abbondanti su bassa pianura e costa, ma ci sarà anche la possibilità di qualche locale temporale. In serata probabilmente soffierà bora moderata sulla costa. Domani cielo dal poco nuvoloso a variabile con la possibilità di qualche locale temporale, più probabile dal pomeriggio. Temperature nella norma del periodo. Prosegue l'azione dell'Unione Europea sui capitoli del Green Deal, ovvero quella serie di provvedimenti che dovrebbero portarci a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, adattandoci ai cambiamenti in atto. Ieri è entrato in vigore il regolamento comunitario sul ripristino della natura, voluto per migliorare la biodiversità dell'Unione. Come obiettivo generale, gli Stati dovrebbero adottare entro il 2030 misure mirate in almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione. Ma sentiamo che cosa potrebbe comportare per la nostra regione questo regolamento. Prosegue l'azione dell'Unione Europea sui capitoli del Green Deal, ovvero quella serie di provvedimenti che dovrebbero portarci a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, adattandoci ai cambiamenti in atto. Ieri è entrato in vigore il regolamento comunitario sul ripristino della natura, voluto per migliorare la biodiversità dell'Unione. Come obiettivo generale, gli Stati dovrebbero adottare entro il 2030 misure mirate in almeno il 20% delle aree terrestri e marine dell'Unione. Cosa potrebbe comportare per la nostra regione questo regolamento? Lo abbiamo chiesto a Elia Mioni di Legambiente del Friuli Venezia Giulia. Ma fermo restando che siamo all'inizio di un percorso, oggi toccherà allo Stato italiano recepire queste norme, trasformarle in leggi, direttive, eccetera, e ci sarà un coinvolgimento anche delle regioni e speriamo delle parti sociali e non solo di alcune. Le prime cose che mi vengono in mente sono per esempio l'impegno di ricostruire 25.000 chilometri di fiumi a flusso libero entro il 2030. Credo che questo voglia dire che per quanto riguarda la partita degli sbarramenti sul medio corso del Tagliamento si tratti di tenere presente di questa indicazione e di non continuare ad insistere con quel tipo di progetti. Oppure il discorso del miglioramento della biodiversità in generale, la difesa degli insetti impollinatori che sono vitali per l'agricoltura e per la produzione di biodiversità e di alimenti. In questa regione ci sono 900 specie circa di api, vespe e bombi, a fronte di 1200 circa in Italia. Questo ci dà l'idea dell'impegno scientifico, tecnico, di ricerca e di applicazione che apre questa direttiva comunitaria. Quindi la sfida è quella che non basta più conservare, ma si tratta di ripristinare la natura. Questo vuol dire per esempio anche le aree umide, le torbiere dell'area del Friuli collinare, dove invece si pensa di fare strade. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. Rimaniamo sui temi ambientali. Farà tappa anche in Friuli Venezia Giulia la campagna della Carovana dei Ghiacciai 2024, che anche quest'anno porterà in primo piano gli effetti della crisi climatica, degli eventi meteo estremi in montagna e la tutela della biodiversità, dalle politiche per l'adattamento ai cambiamenti climatici alle buone pratiche di sviluppo sostenibile, al documentario sull'agonia dei ghiacciai alpini. Dopo la tappa sul Monte Bianco, il cui ghiacciaio in 174 anni ha perso 300 metri e 30 solo in 2 anni, la carovana si sposta da oggi al 22 agosto in Val d'Aosta per monitorare lo stato di salute dei ghiacciai delle Valpelline e poi si recherà in Piemonte, in Lombardia e dal 31 agosto al 2 settembre nella nostra regione per i ghiacciai delle Alpi Giulie. Con la Carovana dei Ghiacciai 2024, Legambiente invita tutti a firmare la petizione online Una firma per i ghiacciai per chiedere al governo azioni concrete partendo dall'attuazione di 7 interventi indicati nel manifesto per una governance dei ghiacciai e salvare il nostro ecosistema. Una petizione che si può firmare sul sito dell'Associazione Ambientalista. Ieri la ricorrenza del 78esimo anniversario della strage di Vergarolla in Istria, che il 18 agosto del 1946 provocò la morte di oltre 100 persone, tra cui diversi bambini e famiglie intere. Al medico Geppino Micheletti, che continuò ad operare i feriti e a salvare decine di vite nonostante la morte nella strage dei suoi 2 figli piccoli e di altri parenti, questa mattina è stato intitolato il giardino interno dell'ospedale maggiore di Trieste alla presenza di una sopravvissuta. Un boato terribile ed una densa colonna di fumo nero, poi urla, pianti, dolore. 78 anni fa, il 18 agosto 1946, la spiaggia di Vergarolla, Pola, si macchiò del sangue innocente di intere famiglie uccise dall'esplosione di residuati bellici. I morti accertati furono almeno 65, tra questi 2 giovani fratellini di 6 e 9 anni, Renzo e Carlo. Il loro papà, Geppino Micheletti, era il medico chirurgo dell'ospedale cittadino, che in breve tempo si riempì di feriti. Nonostante fosse stato informato della tragica scomparsa dei suoi 2 figli, del fratello e della cognata, Micheletti restò al suo posto curando i sopravvissuti per un giorno intero. Oggi il giardino interno dell'ospedale maggiore di Trieste è stato intitolato a quel medico eroe durante una cerimonia organizzata in collaborazione con l'associazione Trieste Pro Patria, alla quale era presente anche Silvana Zimuel, miracolosamente scampata alla strage. La donna allora aveva 4 anni. Era una giornata di sole e io con mio papà siamo andati in spiaggia a Vergarolla, dove andavamo sempre perché c'erano quelle benedette mine, maledette mine, che a noi sembravano un Luna Park. Io con tutti gli altri bambini anche della mia età, sicuramente anche Carlo e Renzo, ci arrampicavamo su quei tubi che chiamavamo tubi neri, poi bollenti dal sole perché il sole d'agosto erano lì. Arrivavamo il più possibile in alto e poi dall'alto ci tuffavamo nel mare nella baia di Vergarolla, uno spasso. Lo chiamavamo il Luna Park. E poi l'esplosione terribile. È stata l'esplosione e il Luna Park ha spento le luci per sempre. La figura del dottor Micheletti è stata ricordata dai rappresentanti di regione, comuni e azienda sanitaria di Trieste. Un esempio per le nostre generazioni, ha sottolineato il rettore dell'università, Roberto Di Lenarda. Silvano Barone, TGR Friuli Venezia Giulia. Lo sport, il calcio, torniamo a occuparci del prezioso pareggio dell'Udinese contro il Bologna nella prima giornata di campionato. I bolognesi hanno segnato su rigore al 57esimo, i friulani hanno pareggiato 10 minuti dopo dal successivo corner, ma sentiamo il primo commento di mister Rooney Heights. Prima partita, 1 punto, sono felice. L'avversario era molto difficile, a very good team. La prima dell'Udinese è buona soltanto per il punto conquistato. Allo stadio Dall'Ara, il Bologna deve confrontarsi con la Champions. I friulani con una stagione di ripartenza dopo una salvezza strappata a morsi. Livelli di competitività molto diversi che rendono meno clamoroso il dato del possesso e dei 7 tiri a 2 finale in favore dei rossoblù. Il pressing alto è l'arma preferita da Italiano, che mette in crisi da subito l'Udinese. Le parate di Okoye su Orsolini e l'errore di Ndoye permettono alla squadra di Runjajić di chiudere il primo tempo in piedi. I friulani si fanno buttare a terra da un rigore provocato da Pagero nella ripresa, che come i suoi compagni ha il merito di saper reagire subito, quella che Runjajić ha imparato a conoscere come la forza della passione. Abbiamo comunque lottato fino alla fine, dobbiamo giocare molto meglio con la palla anche per mantenere più equilibrio. Oggi non lo abbiamo fatto efficacemente, ma la squadra ha lottato fino alla fine. Il nostro slogan è la passione della nostra forza, la squadra oggi ha dimostrato grandissima passione. Il tecnico tedesco-croato ci mette del suo, inserendo Castrom per Lovric, centrocampo più solido, e Udinese che spreca l'occasione del pareggio con Toven su rigore, ma trova con la testa di Giannetti la rete per restituire ai suoi 1000 tifosi un senso alla trasferta in Emilia. Comunque è stato molto importante reagire immediatamente a trovare il gol del pareggio dopo il rigore sbagliato, poi dopo abbiamo creato anche dei presupposti, anche se non delle chiare occasioni, ma la cosa più importante è che è arrivato il pareggio, ma che soprattutto la squadra ha lottato fino alla fine. Rugnaic ha bisogno di tempo per far vedere la sua idea di calcio più aggressivo, ma deve avere anche qualcosa in più dagli esterni per rendere la squadra più pericolosa. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Basket, nuovo assetto per la Pallacanestro Trieste. L'avvocato statunitense di origini istriani Paul Matiasic ha completato l'acquisizione del 100% delle quote della società Cotogna Sports Group, che controlla la squadra, diventando così il nuovo proprietario del club, di cui ha assunto anche la carica di presidente del consiglio di amministrazione. Matiasic era diventato socio degli Cotogna Sports Group ad aprile, acquisendo la maggior parte delle quote societarie. Con la sua presidenza, si legge nella nota che ieri ha ufficializzato il passaggio di consegne, la governance del club e l'approccio cambieranno in modo significativo, diventando esclusivamente focalizzati sul basket e sullo sviluppo della squadra e delle sue infrastrutture a Trieste. Corsa in montagna. Su un percorso alternativo e inedito, i team del Regno Unito hanno vinto la staffetta Tre Rifugi, mettendo la firma sia al maschile che al femminile. L'allerta meteo ha costretto gli organizzatori della storica competizione a ripiegare su un anello di 5 km e 250 metri di dislivello tra l'abitato di Collina di Forniavoltri e il rifugio Tolazzi. Sono state 122 le formazioni al via, arrivate anche da altre regioni italiane e dall'estero. Lotta accesissima per la vittoria nella gara maschile, decisa solo nella terza frazione, quando la squadra britannica, composta da Joe Stewart, Finn Grant e Ben Ruddery, ha distanziato i campioni uscenti dell'Atletica Dolce Nord-Est, Isacco Costa con Lorenzo e Luca Cagnati, precedendoli al traguardo di 39 secondi e chiudendo con un tempo di 58 minuti e 16 secondi. In campo femminile, la gara è stata invece dominata fin dall'inizio dalle britanniche Philippa Williams, Eve Pannon e Antonia Fan, che hanno chiuso in 1 ora, 10 minuti e 44 secondi. Seconda, a quasi 4 minuti di distacco, l'altra formazione britannica del North of England, Rosie Woodhams, Betty Bergstrand e Alexandra Whittaker. Chiudiamo qui questa seconda edizione del nostro giornale radio. In redazione ha collaborato Edoardo Veglia, per la parte tecnica in regia Eugenio Giuffrida e Samuel Montalto. Da parte di Daniele Lettige e di Elisabetta Zaccolo che vi parla, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Prossimo giornale radio alle 15. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.